Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Buongiorno, buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Filippo Aureggi in regia, da Miriam Lucchetti in assistenza. Europa, oggi inevitabile ripartire da Bruxelles che si è impegnata, dice letteralmente, a studiare un mandato di arresto dell'Unione Europea emesso dalla Spagna nei confronti del deposto leader catalano, chiaramente Puigdemont, che al momento si trova in Belgio. Come leggere questa modalità espressiva? Grande imbarazzo. Imbarazzo è la precisazione appunto che arriva dalle autorità del Belgio, che si tratta di una questione giudiziaria e non politica, e pertanto, come dire, non vogliamo avere una posizione che non sia quella strettamente giudiziaria. Analogo di fatto l'atteggiamento assunto in queste ore dalla Commissione, proprio mentre viene appunto spiccato questo mandato da parte delle autorità spagnole, che richiede appunto la consegna sostanzialmente del leader ribelle, e la Commissione tace e aspetta. Allora facciamo il punto della situazione in questo servizio che ci ha mandato da Bruxelles il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. C'era un tempo quando a preoccupare l'Unione Europea erano principalmente le tensioni economiche. Oggi sono soprattutto le tensioni politiche. La vicenda dell'indipendentista catalano Carles Puigdemont, che ha deciso di lasciare la Spagna per trovare rifugio a Bruxelles perché perseguito dalle autorità spagnole, rischia di avvelenare non poco il rapporto tra il Belgio e la Spagna. Questa settimana la magistratura spagnola ha emesso un mandato d'arresto europeo contro Puigdemont. Per le autorità belghe il rompicapo è notevole, politico e giuridico. Finora il governo di Charles Michel è rimasto prudentemente in disparte. Ora però dovrà decidere se concedere l'estradizione e verificare se i reati di sedizione, ribellione e malversazione siano una giustificazione per un trasferimento dell'uomo politico in Spagna, dove rischia 30 anni di prigione. Già in passato, negli anni 90, il governo belga non concesse l'estradizione dei militanti dell'ETA, l'organizzazione terroristica basca, per paura di torture in Spagna. Oggi la vicenda è più delicata ancora, tanto più che nella maggioranza di governo in Belgio sono presenti gli autonomisti fiamminghi della NVA. Questi non vogliono cavalcare la vicenda catalana per ottenere l'indipendenza dal Belgio, ma potranno voler impedire l'estradizione per motivi di politica interna, complicando non poco il rapporto tra Madrid e Bruxelles. Insomma, come detto, il rompicapo è notevole. La sfida è all'altezza della patria di Magritte e del surrealismo. Storicamente, il Belgio è stata la patria degli esuli, da Karl Marx a Victor Hugo fino a Victor Serge, ma del caso Carles Puigdemont, Bruxelles avrebbe volentieri fatto a meno. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Bruxelles ne avrebbe fatto decisamente a meno, sia Bruxelles intesa come capitale naturalmente del Belgio, sia Bruxelles intesa come luogo, istituzione appunto di riferimento. Sapete, Bruxelles fu una scelta in qualche modo, a suo tempo venne ritenuta temporanea, una scelta alternativa ad altre posizioni appunto geograficamente più centrali ma più difficilmente raggiungibili dell'Europa. Bruxelles è diventata invece la capitale delle istituzioni, anche se, come sappiamo, insomma, anche a Strasburgo c'è un ruolo importante, ma tanto è a Bruxelles che si decidono le questioni chiave. E a suo tempo si decise anche che il mandato di arresto europeo di fatto è un sistema che sostituisce il sistema dell'estradizione, un sistema che impone che ciascuna autorità giudiziaria nazionale riconosca ed esegua, dopo dei controlli considerati diciamo minimi entro rigide tempistiche, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro paese dell'Unione Europea. Una faccenda che naturalmente non è stata concepita per situazioni specifiche e sfumature così delicate come quelle attuali. Ecco, mentre Bruxelles sapeva e pensava che avrebbe dovuto dedicare gran parte di questo autunno al tema della Brexit, chissà, qualcuno pensava forse che la questione sarebbe stata affrontata con più celerità e invece su questo fronte i tempi si prolungano. Una mozione approvata alla Camera dei Comuni adesso obbliga il governo conservatore a rendere pubblici 58 studi sugli scenari possibili sui vari fronti del dopo divorzio dall'UE. Questa è una delle notizie della settimana, ma per arrivare alla presentazione di questi scenari è stata necessaria una battaglia dei laburisti che parlano di vittoria della democrazia quando appunto costringono i conservatori a raccontare, a rendere pubblico questi scenari. Addirittura 58, quindi chissà quante possibilità ed opzioni. Intanto il processo va per le lunghe. Allora sentiamo da Leonardo Maisano da Londra a che punto siamo con la lunga lenta marcia della Brexit. Lo scandalo a luci rosse lungo la direttrice Westminster Downing Street fa rotta verso la Brexit. L'uscita di scena del ministro della difesa Michael Fallon non mette fine a una vicenda che rischia di determinare vincitori e vinti nello scontro all'interno del partito conservatore sul destino di Londra nell'Unione Europea. Cresce la sensazione che presto Theresa May dovrà mettere mano all'esecutivo, eliminando ministri e sottosegretari compromessi per fare largo a politici capaci di meglio gestire se stessi nel rapporto con le colleghe. Tassi di testosterone mal riposto rischiano paradossalmente di influire sulla Brexit, favorendo esponenti delle due fazioni in lotta nei posti di vertice al governo. In attesa di capire che cosa accadrà di questa nuova impennata prodotta dalla politica britannica, resta al tappeto una Theresa May ulteriormente indebolita e una trattativa per l'uscita dall'UE destinata a rallentare ancora. Il caos che potrà generare un rimpasto inevitabile se lo scandalo dovesse travolgere altre personalità di governo potrebbe impattare drammaticamente con la capacità di Londra di gestire l'uscita dall'UE. Allo scontro fra i Tory si aggiunge ormai quello contro il tempo. L'orologio marcia inesorabile e nessuno crede più che Londra possa chiudere un accordo finale entro il marzo 2019. Per questo un'intesa ponte anglo-europea è tanto urgente quanto lontana, se è vero che le parti non hanno ancora formalmente cominciato a parlarne. Londra e la sua Brexit, e Madrid e Barcellona alle divisioni interne, lo ricordiamo, in situazioni completamente distinte, diverse, catalani che vogliono sì lasciare Madrid ma non l'Europa. E sulla questione britannica, secondo un ultimo sondaggio, è il pessimismo essenzialmente a dominare. Un sondaggio di Ipsos Mori per conto di 13 camere di commercio straniere nel Regno Unito, l'82% si dichiara degli intervistati si dichiara poco per nulla fiducioso sull'esito dei negoziati con Bruxelles, destinati appunto a concludersi col divorzio del marzo 2019. Un 55% teme risultati negativi, almeno a medio termine, anche per gli investimenti della propria azienda. Non solo, il 54% degli intervistati rileva già dei contraccolpi causati dalle incertezze del post-referendum. Ecco, questa base audio ci porta invece nell'estremo sud dell'Europa, a Malta, dove ieri anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha partecipato su invito della famiglia ai funerali di Daphne Caruana Galizia, la giornalista blogger maltese uccisa il 16 ottobre in un attentato dinamitardo mentre viaggiava a bordo della sua automobile. Dopo il funerale, il presidente dell'Europarlamento ha visitato la redazione di Malta Independent, il quotidiano che per 11 anni ha pubblicato gli articoli di Daphne Caruana Galizia. Appunto. Nel frattempo, 8 direttori hanno scritto una lettera aperta al vicepresidente della Commissione europea, Timmermans, su questo caso. Hanno scritto: non si può permettere che gli assassini Daphne raggiungano il loro palese intento di mettere a tacere la sua inchiesta sulla corruzione ai livelli più alti della società maltese. Per questo Nella lettera viene chiesto l'impegno da parte di Timmermans a titolo personale, ma naturalmente anche a titolo istituzionale, e dicono i direttori: accogliamo favorevolmente i commenti da lei fatti in forma ufficiale, quando ha dichiarato che Malta deve dimostrare all'Europa e al mondo intero di avere leggi e regole sane e rigorose. Anche dunque questa vicenda ovviamente molto drammatica in un paese dell'Unione Europea, paese di cui ci siamo occupati tante volte, paese che è stato anche al centro dell'attenzione sotto lo sguardo internazionale per questioni bancarie, per questioni di cessione di visti, insomma una posizione anche strategica, geografica ovviamente, molto delicata. Ma adesso, prima della viabilità, chiudiamo invece su un tema decisamente più lieve. Celebriamo in qualche modo i 17 anni in orbita intorno alla Terra della Stazione Spaziale Internazionale, 2 novembre appunto di 17 anni fa, e lo facciamo riascoltando anche un passaggio, un momento, un racconto di quello che ormai è uno degli ospiti più ricorrenti, il nostro Paolo Nespoli. Sentiamolo. Siamo in questo momento, siamo in Giappone, stiamo per attraversare il Pacifico, sono un po' tante nuvole, poi passeremo sugli Stati Uniti e poi giù sull'Europa un'altra volta. Qui la vita la stazione è abbastanza intensa, lavoriamo tutto il giorno su esperimenti scientifici, tecnologici, educativi. Astronauti di tutto il mondo lavorano in continuazione sulla astronauti al lavoro, purtroppo la tecnologia invece del nostro file segna un po' il passo, ma vi ricordo 2 novembre 2000 il primo equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, l'Expedition 1, composto a suo tempo l'americano Shepard e i cosmonauti russi Krikalev e Gizenko, e entrò allora per la prima volta appunto questo trio nella base orbitante. Da allora la stazione spaziale è stata abitata ininterrottamente da uomini e donne di diversa nazionalità, e molti anche quelli italiani. 5 dei 7 astronauti italiani dell'ESA, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e Paolo Nespoli, che abbiamo sentito, quest'ultimo attualmente in orbita per la terza volta per la missione Vita dell'Asia, appunto con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea. Dunque buon lavoro, dallo spazio alle strade, gli aggiornamenti, poi torniamo per la seconda parte. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Europa, Europa. Ancora ben ritrovati da Gigi Donelli, da Filippo Reggi in regia, da Miriam Lucchetti in assistenza. Dunque, il glifosato, ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, e il 9 novembre dunque la Commissione europea ha convocato una nuova riunione proprio per discutere una questione molto delicata, il rinnovo in questione, quello della licenza decennale per l'uso in agricoltura, che non ha superato i dubbi di alcuni paesi, diciamo Francia e Italia in particolare. Introdotto sul mercato nel 74, il glifosato è il più diffuso pesticida al mondo. Nel 2015 la IARC lo ha inserito nella lista delle sostanze probabilmente cancerogene, nella lista 2A, quella dove troviamo tante cose, peraltro basta appunto googolare, c'è l'elenco completo, troviamo anche, ma non solo, cose come la carne rossa, le bevande calde a temperatura superiore a 65 gradi centigradi. Insomma, un tema molto delicato che ha a che fare con la nostra salute. Sentiamo il servizio. La Commissione europea ha convocato per il 9 novembre una nuova riunione con gli esperti dei 28 paesi UE per decidere sul rinnovo dell'autorizzazione del glifosato, il più diffuso diserbante al mondo, impiegato in agricoltura. La licenza per l'uso in agricoltura del contestato pesticida scade a metà dicembre e Bruxelles aveva inizialmente pensato a una proroga prima a 10 anni, poi ridotta a 7. Ma lo scorso 25 ottobre non si è potuto votare alcuna proroga per mancanza di una maggioranza qualificata sulle due ipotesi, Per poter decidere sulla questione, infatti, serve una maggioranza qualificata pari al 55% dei Paesi membri e al 65% degli abitanti dell'Unione Europea. Alcuni Paesi, infatti, Francia, Italia, Austria, Lussemburgo e Belgio, hanno espresso pubblicamente contrarietà a una proroga di 10 anni. Altri, come Regno Unito, Irlanda, sarebbero all'opposto favorevoli a una licenza anche più lunga. Ma la Commissione, per superare l'impasse, sarebbe pronta a proporre una proroga della prossima licenza UE sull'erbicida, limitata a 5 anni. Il glifosato è stato introdotto sul mercato nel 1974 ed è oggi l'erbicida più utilizzato al mondo. Oltre a essere relativamente economico, elimina tutte le erbe infestanti. Come tutti i pesticidi, anche il glifosato è da tempo sotto osservazione. Nel 2015 la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che fa parte dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, lo ha inserito nella lista delle sostanze probabilmente cancerogene, categoria 2A, quella a cui appartengono, per intenderci, anche la carne rossa, alcuni composti chimici utilizzati dai parrucchieri o le sostanze che si sprigionano dalla frittura ad alte temperature. Una diagnosi, tuttavia, al momento non condivisa dalle agenzie europee per la sicurezza e da quella sui prodotti chimici. A favore del rinnovo della licenza ci sono produttori e aziende agricole che ne fanno uso e lo ritengono essenziale, per il momento, nel mantenere gli attuali volumi di produzione. Sarebbe poco impattante e non è stata provata, sostengono, la correlazione con l'insorgere di tumori. Al contrario, solo in Italia 34 associazioni hanno aderito al manifesto Stop Glifosato. Sostengono al contrario che diversi studi hanno provato la correlazione tra il composto e diversi tipi di cancro e che il glifosato potrebbe essere responsabile di malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson. Nel 2012 sono state vendute nel mondo oltre 718.000 tonnellate di glifosato. Il mercato globale di questo diserbante valeva 5 anni fa 5,4 miliardi di dollari e entro il 2019 dovrebbe raggiungere gli 8,8 miliardi di dollari. In Italia se ne consumano oltre 2.000 tonnellate l'anno. Laura Cavestri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Glifosato, dunque, continueremo a occuparcene in questo spazio, nello spazio delle nostre informazioni, delle news, insomma, in ogni uno spazio naturalmente della salute. Prima avete sentito Nicoletta Carbone, parlava anche di alcuni appuntamenti importanti, imminenti, l'EMA, altre questioni che riguardano sempre la salute e l'Europa. Adesso invece parliamo di migrazioni e di come questi grandi temi sulle dimensioni globali del fenomeno delle migrazioni poi ricadano nella quotidianità, fenomeni che sono essenzialmente riconducibili al grande divario tra nord e sud del mondo, dunque la migrazione come strumento quasi fisico di per portare un equilibrio nuovo, almeno per chi appunto è nella parte povera del mondo, per cercare di migliorare la propria condizione. Poi c'è un aspetto che invece affrontiamo adesso ed è quello in maniera più puramente demografico. Allora, Silvia Bernardi ne ha parlato con Francesco Billari, che è docente all'Università Bocconi di Milano. Sentiamolo. Siamo portati a considerare il fenomeno dell'immigrazione in Europa molto legato al tema della sicurezza, delle morti in mare, delle quote e del lavoro, molto meno invece a leggerlo in chiave demografica. Eppure i demografi ci dicono che se proseguiranno le politiche di chiusura delle frontiere, come già hanno messo in atto alcuni paesi europei, entro il 2050, cioè praticamente dopodomani, si arriverebbe ad un calo demografico non compensabile solo con l'aumento dei tassi di attività e con l'estensione dell'età pensionabile. E ci dicono anche, sempre gli stessi demografi, che ci perderemmo in termini di produttività e innovazione, al punto che l'Europa dovrà attirare considerevoli flussi di immigrati per sostenere un modello ragionevole di crescita. È così il professor Francesco Billari, demografo, docente dell'Università Bocconi di Milano. È sicuramente così. L'Eurostat, che è responsabile per le proiezioni demografiche, ha recentemente fornito delle nuove proiezioni per il futuro della popolazione europea, che attualmente, se guardiamo l'Unione Europea, a 28 è superiore a 500 milioni di abitanti, 508 milioni, e ha visto che in assenza di migrazioni, hanno preso uno scenario, in assenza di migrazioni questa popolazione calerà a 470 41 milioni. Continuando il trend migratorio attuale, invece, la popolazione rimane costante o addirittura si incrementa. Questo calo è concentrato in particolare nelle fasce più produttive della popolazione, nelle età che sono centrali a livello produttivo e che servono anche per pagare le tasse che poi permettono da un lato di fornire servizi ai bambini che vanno a scuola e ai giovani che vanno all'università e dall'altro anche di finanziare il sistema pensionistico. Immigrazione quindi necessaria dunque, ma la questione rimane sul tipo di immigrazione. Come può intervenire allora l'Europa in questa direzione? In qualche modo la scelta che ha fatto la Germania quando ha aperto le porte ai rifugiati, soprattutto siriani, è stata una scelta di investimento su una popolazione che in quel momento era in forte difficoltà, ma che è stata considerata a forte potenzialità. Ci dobbiamo rendere conto però che si compete con altre società che vogliono attirare i migliori migranti. L'Europa dovrà mettersi in quest'ottica. 12:54 minuti 55 secondi è tutto il tempo di ringraziare Filippo Aureggi in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, di anticipare che tra pochi istanti saranno con noi Dario Ceccarelli e Cristina Carpinelli per gli aggiornamenti di GR24, come sempre naturalmente Europa chiocciola radio24.it per tutte le vostre domande. Un saluto, la linea ovviamente al GR.